verità. Sono un fiume piena e tu non puoi fermarmi mai. Tu mi piaci un sacco. Come faccio a dire le parole che vorrei? Come posso fare se tu non mi scocchi mai? Non fare così, dai, rimani qui. Siamo fuori all'unisono, tu ed io. Niente conta di più. Stiamo bene insieme, forza, ammettilo anche tu. Non pensare a domani, il tempo passa in fretta, sai. È soltanto una questione di complicità. Forti sensazioni accendi quando stai con me. Sì, mi piace un sacco. Come faccio a dire le parole che vorrei? Come posso fare se tu non mi ascolti mai? Non fare così, dai, rimani qui. Siamo fuori all'unisono, tu e io. Niente conta di più. Tu, sì, lo vuoi che tu.